seu modo de usar. E dime tu que cos'è. Tu che raccogli il mio cuore senza far rumore. Da questo lato del fiume ogni cosa è più facile. Le mani scorrono libere su di te. Che respiri le pause della mia canzone. Resta, resta, resta. Ora che scrivo il tuo nome sull'acqua del fiume. Atenção com as pausas do meu.